Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. 102.2 Radio Sandonà, buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking. Buonasera Laura, che bello riaverti qui per presentare che cosa? Allora, stasera intanto buonasera a tutti, anche per me è un piacere essere di nuovo qua e presentiamo il libro di un scrittore israeliano contemporaneo. Lui si chiama Mary Shalev e il titolo del libro è Andata così. Esattamente, Mary Shalev, si diceva, autore israeliano, è andata così, è uscito nel 2010 per Feltrinelli, un libro spassosissimo che andremo a conoscere durante questa puntata assieme in compagnia di Laura. Mary Shalev, tra l'altro, figlio d'arte. Sì, lui è figlio del poeta Isaac Shalev. Ed è curioso che sia nato nel 1948 Meir Shalev, che è l'anno di fondazione dello Stato di Israele, e Israele riveste un ruolo fondamentale nella sua narrazione, non tanto perché non si parla per Meir Shalev di letteratura politica, quanto in realtà descrive il mondo dei pionieri all'inizio delle ondate migratorie, in maniera molto ironica, divertente, raccontando di un mondo agricolo contadino che adesso non c'è più, ma pieno di odori, sapori, profumi e le spezie medio orientali, insomma. Infatti, e quindi Mary Shalev ci va a raccontare una storia che sembra anche molto autobiografica e in cui si intrecciano parecchi personaggi relativi alla sua famiglia. Sì, infatti, Shalev racconta della sua famiglia molto bizzarra, che era originaria dell'Ucraina e che però si era trasferita in Palestina verso la fine del 1800. Il capostipite, suo nonno Aaron Ben Barak, era stato tra i fondatori di uno fra i primi moshav, che erano i villaggi cooperativi agricoli, e accanto a questo nonno, che tra l'altro pur avendo fondato un villaggio agricolo, è assolutamente negato per la vita dei campi, si intrecciano le storie in primis della sua consorte, Tonia. Tonia è la nonna dello scrittore Meir Shalev ed è una figura assolutamente spassosissima. Quelle figure da romanzo di bassa statura ma di grande personalità, potremmo dire. Infatti i suoi comportamenti un po' fuori dagli schemi destano i sospetti, i sogghigni dei suoi compaesani che la descrivono come un tipo bislacco. Io andrei proprio a leggere l'incipit e la presentazione di questa nonna Tonia, perché è molto divertente. Così scrive Meir Shalev: Tonia era mia nonna, la madre di mia madre, e a me non sembrava per niente matta. Era diversa, era strana, era quel che da noi si definiva come un tipo. Era una donna non facile, per dirla con un eufemismo. Matta? Direi proprio di no. Ma come capita sempre, anche a questo proposito non tutti sarebbero d'accordo con me. Tanto in paese quanto in famiglia c'è chi la pensa diversamente. Come in ogni famiglia. Esatto. No, tra l'altro è interessante questa cosa che Meir Shalev parli proprio della nonna e comunque di ricordi familiari abbastanza radicati, perché nel tempo, anche nella storia di questa trasmissione, è capitato di parlare di Safran Foer, che nel suo saggio sull'importanza di non mangiare carne, ossia il suo approccio al vegetarianesimo, in sostanza, lui prende l'idea praticamente proprio da un suo ricordo infantile, da dei suoi discorsi con sua nonna, quindi questo tema ritorna. Poi Gad Lerner, che abbiamo intervistato tempo fa, anche lui nel suo Scintille, credo sia, è l'ultimo libro con cui è arrivato anche finalista al Campiello, anche lì una storia familiare e ricordi di nonno e nonna, quindi c'è un filo conduttore in qualche modo. Questo, il taglio qui sembra molto più ironico e molto più divertente. Ironico, molto più spassoso, ed è proprio divertente, si legge volentieri questo libro, scorre via. Benissimo, allora prima di continuare a un po' a esplorare la trama di È andata così di Meir Shalev, che è il libro che ci accompagnerà questa sera sui 102.2 di Overbooking, andiamo a fare un brevissimo intermezzo musicale. Questa è Lucinda Williams. Born to be disgrace. You were born to be loved. Mm-hmm. You were born to be loved. Born to be Loved di Lucinda Williams sui 102.2 di Radio Sandonà, qui in compagnia con Laura e con me Alvise, Daniele in regia per questa puntata di serale di Overbooking. Vi ricordo che per intervenire in trasmissione potete telefonare allo 0421 560993 o mandare un fax allo 0421 560994, altrimenti la mail radio@radiosandona.it. La puntata di questa sera è dedicata allo scrittore israeliano Meri Shalev, che ha recentemente pubblicato nel 2010 per Feltrinelli Questo è andata così, un romanzo autobiografico di cui Laura ci sta parlando e ci parlerà più diffusamente nel proseguo della puntata. Vi ricordo che la puntata medesima è sempre ascoltabile o scaricabile dal nostro blog, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Nel blog potreste trovare non solo questa puntata, ma anche tutto quello che ruota intorno alla galassia Overbooking, quindi recensioni, manifestazioni letterarie e culturali in genere che interessano l'area sandonatese. Con l'occasione vi consiglio anche di andare a vedere la nuova veste grafica di www.radiosandona.it, dove potrete essere informati su tutto quello di cui si occupa Radio Sandonà e tutta la sua programmazione, perché ci sono un sacco di bei programmi oltre a questo, che nella sua dignità continua sudando, diciamo. Allora, torniamo invece a Meir Shalev e è andata così. Abbiamo introdotto questa figura mitologica della nonna. Sì, a rendere ancora più spassoso questo personaggio assolutamente, io direi, bislacco, anche se i compaesani di Meir Shalev, anche se Meir Shalev la difende a spada tratta, è proprio la sua ossessione per la pulizia. Meir Shalev ironizza dicendo che tutti abbiamo dei nemici, e per nonna Tonia il nemico numero uno era la sporcizia. Nel corso della lettura fa diversi esempi, ne cito alcuni. Nonna Tonia usava mettere stracci alle maniglie perché non si sporcassero gli ottoni. Oppure, dice Mershalev, amava ricevere ospiti in casa, ma in realtà non li riceveva propriamente in casa, li riceveva in terrazza, in modo che non portassero polvere dentro. Non si poteva entrare dall'ingresso principale, ma dall'ingresso che dava sul cortile, e ovviamente il malcapitato visitatore doveva stare ben attento a non poggiare il piede nudo nel fango del cortile. Vuoi mai che portasse dentro questa sporcizia? E oltretutto questa nonna un po' tiranna faceva fare delle alzatacce alle figlie per far pulire loro la casa prima che andassero a scuola, tanto che addirittura malignamente portava indietro l'orologio di un'ora e le faceva arrivare in ritardo a scuola, così che dedicassero più tempo alle pulizie. Il brano che ho scelto come lettura descrive proprio la madre di Mershalev, Batia, e sua sorella Betsbea, alle prese con le pulizie domestiche e con una sorta di tortura cinese che era la pulitura delle mattonelle. Lascia ad Alvise la parola. E ce n'era da pulire. Lei e sua sorella Betsbea scrollavano tappeti, coperte e copriletti. Lontano da casa, ovviamente, affinché il vento non riportasse la polvere alle finestre. E lavavano il pavimento fuori. Una innaffiava con il tubo e l'altra, armata di una spazzola rigida, strigliava il cemento. Poi c'era la ciliegina sulla torta, il lavaggio quotidiano delle mattonelle. Non so di preciso in quale anno sia stato inventato quel prezioso strumento che è lo spazzolone. Fatto sta che a casa di nonna Tonia non mise mai piede, perché, oltre a lasciare segni sul pavimento, lo spazzolone mica pulisce come si deve gli angoli e gli spazi fra le piastrelle, dato che per sua natura è uno strumento adatto agli sfaticati e ai pigroni, gente che non si sogna nemmeno di piegarsi per terra a controllare da vicino. Perciò mia madre e sua sorella prendevano lo straccio in mano, si chinavano in ginocchio e lavavano quotidianamente, ripetendo l'operazione più volte, finché nonna Tonia non era soddisfatta dei risultati. E quand'è che era soddisfatta? Domandava mia madre, come avrebbe fatto un consumato ascoltatore di storie con un altrettanto consumato narratore? Quando entrambi sanno la risposta? In effetti, nonna Tonia era soddisfatta solo quando l'acqua assorbita dallo straccio e strizzata nel secchio era pulita e perfettamente limpida. Per accertarsene, procedeva ad un controllo accuratissimo. Prendeva un po' d'acqua dal secchio con le mani e la portava sotto la luce. Finché l'acqua non era limpida a dovere, lei pretendeva che le figlie spazzassero e cambiassero l'acqua più e più volte, ripassando lo straccio e strizzando. Era tremendo, sospirava mia madre, ma subito dopo scoppiava a ridere. Ma è così che ancora oggi tutte noi laviamo i pavimenti. Chi era Cenerentola a confronto? Esatto, cioè queste due donne lucidano mattonelle per far felici una madre. Cosa non fanno i figli? Poi, vabbè. Esatto, i genitori si lamentano. Esatto. No, comunque il passaggio è spassosissimo. Tra l'altro è anche un modo di scrivere molto fluido e sì, sembra molto, molto accessibile. Sì, assolutamente. È un modo divertente per di fare letteratura, una letteratura di qualità ma per nulla pesante. Questo era il secondo estratto da Mershalev e il libro È andata così, il romanzo che vi presentiamo questa sera su Overbooking. Una seconda pausa musicale, poi torniamo in compagnia di Laura, Daniele Dalvise, Overbooking 102.2 Radio Sandorà. E questo era il Brandbauer Freak Ensemble e sui 102.2 di Radio San Donà con una canzone dal titolo di cui noi tutti necessitiamo, ossia caffeina. E a quest'ora della sera in qualche modo ce n'è di bisogno. Caffeina oppure il libro È andata così di Meir Shalev che stiamo presentando questa sera e che secondo noi potrebbe tenervi compagnia, un'allegrissima compagnia in tutte le vostre serate da qui ai giorni a venire. E senza innervosire come la caffeina. Esatto, e senza innervosire. Allora, abbiamo presentato questa nonna un attimo maniaca del pulito e ora presentiamo la macchina, ossia lo strumento di pulizia per eccellenza. Eh sì, ovviamente la nonna aveva un aiutante in questa sua battaglia contro la polvere, che è appunto l'aspirapolvere. Questo aspirapolvere in realtà gli era stato donato dal cognato Isaia che si era trasferito in America. E aveva impiantato un business. Tuttavia viene visto questo cognato da tutta la famiglia come un disgraziato. Aveva sabotato la causa sionista ed era quindi partito, era andato in America, addirittura cambiando il suo nome da Isaia in Sam. Quindi lo zio Sam, infatti. Fin dalle prime pagine del romanzo, Shalev rivendica la centralità di questo personaggio che è l'aspirapolvere. Diciamo che questo aspirapolvere è quasi umanizzato. Io, infatti, andrei a questo punto a leggere la presentazione dell'aspirapolvere. La storia che mi accingo a raccontare riguarda lei e il suo sweeper. È così per l'appunto che chiamiamo l'aspirapolvere mandatole dallo zio Isaia, il fratello maggiore di nonna Ronnie, cioè suo marito. Tengo a precisare che so bene che sweeper e aspirapolvere propriamente detto sono due apparecchi diversi, ma nonna Tonia chiamava così il suo aspirapolvere e pronunciava la parola con una R rotonda e una I profonda alla russa. Quanto allo sweeper, si trattava di un massiccio e robusto aspirapolvere marca General Electric. Nessuno, né prima né dopo di allora, aveva mai visto nulla del genere in paese, come del resto in tutta la valle di Jezreel e nell'intera Palestina. Così mi raccontava mamma, meravigliandosene ogni volta. Aveva un serbatoio cromato, enorme e luccicante, così diceva, e delle ruote di gomma silenziosissime, e un motore elettrico molto potente, e un tubo di gomma spesso ma flessibile. Dell'aspirapolvere, infatti, ho detto, tutti favoleggiavano in famiglia, anche perché nessuno aveva avuto modo di vedere questo aspirapolvere, o qualcuno l'aveva visto, ma non esisteva nulla di certo a riguardo, ci dice Shalev, in quanto l'aspirapolvere era stato esiliato in un luogo della casa inaccessibile a tutti i familiari, tranne alla nonna Tonia. In queste stanze proibite, infatti, a fare compagnia a questo aspirapolvere c'era una mobilia assolutamente pulita e intonsa, avvolta in sudari bianchi. Shalev ci dice che lì si trovavano un divano dove nessuno si accomodò mai, due poltroncine che non ospitarono mai nessun sedere e una credenza con cassetti e sportelli mai aperti, pieni di stoviglie che nessun tavolo o commensale vide mai. Quindi assolutamente paradossale come situazione. In realtà l'aspirapolvere, ci dice Shalev, cade in disgrazia perché Tonia si rende conto e realizza che la polvere di cui l'ha catturata non era eliminata definitivamente, ma era custodita e nascosta all'interno dell'aspirapolvere. E quindi l'aspirapolvere era sporco, e quindi la sporcizia rimaneva in casa in maniera addirittura più subdola. quindi è davvero esilarante la scena in cui Tonia chiede al fratello Isacco, un quasi ingegnere, di smontarle l'aspirapolvere per svelarne le interiora vere e proprie, e anche qui ci sono degli spassosi passaggi di cui ho selezionato alcuni brevi passi. In un attimo lo Swiffer si spalancò. Dentro apparvero ventole e ruote, cinghie e trasmissioni, e sporcizia e polvere, e in mezzo, brutto, repellente e schifoso come la carcassa gonfia di un rospo, una specie di sacco di stoffa, pieno. Zio Isacco aprì il sacchetto e ne sparse il repellente contenuto sul giornale steso per terra. Nonna Tonia lo esaminò con i propri occhi, ci frugò persino con la punta di un dito. Ma a quel punto successe una cosa terribile. Venne improvvisa una folata di vento che sotto il suo sguardo attonito prese la montagnola di polvere e la sparpagliò per aria. Nonna Tonia lanciò un urlo disperato. Una parte di quella sporcizia, se non tutta, sarebbe tornata in casa. E quindi direi una scena. No, infatti adesso mi immagino che ovviamente avrà organizzato le figlie in modo da non permettere alla polvere di tornare. Ma ti dirò di più, a complicare la situazione addirittura è la tragica scoperta da parte del fratello Isacco che una guarnizione dell'aspirapolvere è leggermente difettosa e che quindi con l'andare del tempo e un'usura che tutti gli elettrodomestici hanno sarebbe potuto succedere che dall'aspirapolvere uscisse un po' di polvere. E qui il fallimento della perfezione della macchina, diciamo. A quel punto nonna Tonia è risoluta e decide di imprigionare quell'insidioso cavallo di Troia, potremmo dire, che è l'aspirapolvere, in queste stanze di cui solo lei possiede la chiave. Ti farei leggere l'ultimo pezzo che riguarda proprio l'imprigionamento del povero aspirapolvere. Nonna Tonia si alzò. La sua decisione di imprigionare il maramaldo e non usarlo più prese corpo in quel preciso istante. Zio Isacco terminò l'opera di montaggio. Lei afferrò il tubo e si diresse verso l'altra porta. Lo Swiffer la seguì con tacita obbedienza, senza immaginare quel che il destino gli riservava. Lei entrò in casa, attraversò il soggiorno e proseguì in direzione del bagno proibito. Lo Swiffer le andava dietro, curioso e trepidante, e ansioso di aspirare anche lì, quando ecco che si ritrovò addosso il sacco dentro il quale era arrivato. Due braccia forti lo sollevarono e lo deposero nella scatola. La robusta corda bianca dello zio Isaia fu avvolta e serrata tutto intorno, e poi ecco la camicia di forza del vecchio lenzuolo, collega dei tanti che coprivano la mobilia nelle stanze chiuse. Sul tutto venne adagiata una coperta. Subito dopo la sua padrona se ne uscì dal bagno e chiuse la porta. Buio come nel ventre della nave e nei vagoni merci. Silenzio. Rumore di chiave infilata nella toppa, rumore di chiave che gira, porta serrata. Una situazione assolutamente grottesca, direi, proprio per questa sproporzione fra la serietà e la solennità dei toni e in realtà quello che sta accadendo. Un veloce intermezzo musicale e poi ritorniamo sui 102.2 di Radio San Donato. We'll be right back. Martha Reeves and the Vandellas sui 102.2 di Radio San Donà. Noi siamo in compagnia di Mer Shalev con il suo È andata così, dicevamo, uscito per Feltrinelli nel 2010, che ci narra le vicissitudini di una nonna e di un aspirapolvere, ma c'è molto di più in questo libro. Sì, è interessante anche capire il titolo un po' bizzarro, insomma, che può colpire, in quanto il titolo È andata così è proprio tratto da una frase che la stessa nonna Tonia diceva nel momento in cui iniziava a raccontare le sue storie. E questa espressione È andata così era quasi un intercalare assertivo per dare conferma e veridicità a quello che si stava raccontando. Andrei a leggere il brano in questione, in cui Shalev spiega l'origine anche del titolo. È andata così era la formula con cui esordivano tutte le sue storie. La pronunciava con il suo pesante accento russo. Anche i suoi figli, mia madre, i suoi fratelli e sua sorella dicevano è andata così, nello stesso modo all'inizio di ogni storia, e arrotavano la R come faceva lei. Mica solo loro. Ancora adesso usiamo questa formula e quell'accento lì per dire è una cosa vera. Quel che sto per raccontare è, per filo e per segno, come sono andate le cose. Infatti, al di là dell'umorismo e dell'ironia che c'è dietro questo libro, il tema fra le righe e più profondo che si scorge da questa lettura è proprio l'importanza anche della memoria e di una sua custodia e conservazione proprio attraverso la narrazione. Shalev, infatti, anche in un'intervista rivendica il legame che aveva con le donne della sua famiglia, che erano anche detentrici di questa capacità fabulatoria che da sempre appartiene in realtà a noi donne, diciamolo. E Shalev ce lo dimostra in questo romanzo, che in realtà si può anche leggere come un tributo alla saga della sua famiglia e a quel mondo contadino a cui tanto lui si sente legato. E quindi io concluderei con un brano molto lirico anche che quest'autore dedica alla sua terra. Abbiamo vissuto a Nahalal 2 anni e 2 mesi in tutto. La quarta e la quinta elementare, frequentate lì, sono state il periodo più bello di tutta la mia infanzia e giovinezza. La scuola di Nahalal era la più esclusiva in cui abbia mai studiato. C'erano degli insegnanti eccellenti e aperti, e le lezioni si svolgevano non di rado all'aria aperta. Nel Wadi, alla collina di Shimron, presso il cimitero, nel boschetto e nei campi. Ma io mi godevo soprattutto l'intimità quotidiana con la grande e animata famiglia di mia madre, con tutti i suoi colori, le sue storie, i ricordi, le espressioni, i guai, le miserie, le gioie, i conti e i sentimenti. Quando tornammo a Gerusalemme, ai caseggiati grigi del quartiere, dai pazzi, i ciechi, gli orfani della città, tutto mi sembrava cupo e malato e depresso, dopo i verdi e dorati campi di campagna, giorni di sole e natura, di corpo esposto all'aria, piedi scalzi sulla terra calda, cane e bambino, porte dietro le quali si nascondevano arcani e storie. E questo è un bellissimo pezzo tratto da Questo è andata così di Mer Shalev. Tra l'altro, se dovessi in 3 parole dirci perché leggere questo libro. Perché se lo leggete riderete per tutto il tempo. È assolutamente spassoso come libro. Poi anche, secondo me, è un tema questo, come dicevi giustamente, della memoria e anche di una memoria di un vissuto familiare, in certo, qualche modo, che ha una sua ragion d'essere in letteratura. E mi piace che anche in tempi recenti sia stato riscoperto, penso ad esempio a Canale Mussolini di Pennacchi, che non sembra avere la stessa vena ironica, però sicuramente è una riproposizione, anche se anche in Canale Mussolini ci sono gli episodi parecchio spassosi, diciamo è una riproposizione di un vissuto collettivo, diciamo, e familiare, che altrimenti andrebbe perso, e questo lo trovo molto bello da cui. Ma poi è un'attenzione al quotidiano che tutti noi viviamo, per cui ci si può identificare anche con questa nonna e le sue manie per la pulizia. Io ringrazio tantissimo Laura per essere stata con noi questa sera. Laura sarà presente una serie di altre volte perché gentilmente ci aiuta, capendo che da soli non andremo molto in là. Un ringraziamento anche a Lele per averci aiutato in regia questa sera, e a Matteo che, seppur da Torino, ci saluta. Ora io vi lasciamo al proseguo della programmazione di Radio San Donà, salutandovi con La ballata del Cerruti di Giorgio Gaber, che ci permette di ricordarvi un evento che avrà luogo questo fine settimana, e precisamente il 7 maggio a Noventa di Piave. Walter Sabato presenterà un lavoro intitolato appunto Gaber, un lavoro teatrale che vi consigliamo, perché non solo per gli amanti di Gaber, ma per tutti quelli che fossero interessati che si fossero magari avvicinati ai lavori del Teatrino della Neve che Walter cura, e più in generale agli amanti della musica italiana e del teatro italiano. Grazie ancora e ci vediamo la prossima settimana. Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago. Era un mago. 20 anni biondo, mai una lira per non passare guai. Chiutava intorno che aria tira e non scopava mai. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago. Era un mago. Una sera in una strada scura, occhio, c'è una lambretta, fingendo di non aver paura, il Cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede chiama, veloce arriva la pantera e lo beve la madama. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago. Era un